Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ripartiremo e torneremo sulla vicenda Fiat, questa volta non Fiat Opel, nessuna grossa novità infatti dalla Germania, se non quello che abbiamo letto nei giorni scorsi, di così qualche ripensamento, qualche dubbio sulla fretta politica anche elettorale nell'avere stretto l'accordo con Magna. Adesso ci si rende conto in Germania che forse il piano industriale della cordata austro-russo-canadese non è che fosse così solido, ma dicevo, non c'è nessuna novità ufficiale sul versante Opel. C'è quella che invece è arrivata ieri in serata, che oggi trovate sui giornali, del tribunale newyorkese, o meglio la corte americana ha fermato l'accordo Fiat Chrysler per tutelare alcune categorie di azionisti, per cui non è un giudizio sull'accordo in sé, ma su come vengono trattate le diverse categorie di azionisti. Ancora, per quello che riguarda i temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo del crollo previsto nel traffico aereo. Già ieri la IATA era uscita con una previsione che diceva il 2009 sarà peggio anche del 2000 dell'11 settembre 2001, per cui di quando il traffico aereo ebbe, come tutti ricordano, un crollo verticale, ma lì recuperò grazie a un'economia sana, o meglio, forse così sana dopo quello che è successo, no, ma un'economia in crescita. Adesso invece c'è un crollo forte come quello dell'11 settembre, ma senza che vi sia un'economia in grado poi di rimediarvi rapidamente. Le prospettive sui ricavi sono drammatiche, 80 miliardi in meno di ricavi solo quest'anno per le compagnie aeree, con molte compagnie a rischio chiusura, con difficoltà enormi nel riempire soprattutto le classi business e prima classe. E parleremo anche di questo, approfondimento poi sulla alcune notizie di carattere britannico. C'è un'offerta importante di BlackRock, c'è una difficoltà dei Lloyds, questo fa parte più della cronaca, e poi altri elementi di questa giornata, tra cui i mercati che in questo momento sono in tutta Europa, in quasi tutta Europa, positivi, perché adesso Francoforte perde lo 0,2, Parigi lo guadagna lo 0,2, Londra è invariata, Milano va bene, visto anche lo scenario, più 0,7%, grazie soprattutto a Enel, più 4,3%, Impregilo più 4,90%, ST Microelectronics più 3,5%, Snam più 2,80% come Parmalat. Il 2,5% lo guadagna la Popolare di Milano, il 2% Mediobanca, l'1,80 Buzzi, Unicem, l'1,70 A2A e Mediolanum, l'1,60 Lottomatica. Fronte opposto invece, Bulgari meno 1,6, Telecom meno 1,5, Saipem meno 1,3 come Prismian, l'1% europea di Fiat e lo 0,70 Unipol. L'euro è tornato a quota 1,40 nei confronti del dollaro. Domani, lo dico a chi ci sta già scrivendo, andremo avanti con la nostra inchiesta tra come cambiano i consumi degli italiani, ripeto, parlando con chi poi invece deve presentare un'offerta ai consumatori, quindi la grande distribuzione in primo luogo, ma non solo. Oggi restiamo più sulla cronaca perché purtroppo si segnala anche un nuovo rafforzamento del petrolio del 2%, quasi a $70 il barile, 69,50, e in rialzo i prezzi dei carburanti, la benzina segna 1,33 euro al litro, il gasolio 1,14, questi i rialzi dell'Agip. 349-238-6666 per i vostri sms, le notizie in breve. Dicevamo di chi in Gran Bretagna della crisi riesce anche a approfittare, a fare acquisti e non solo a subirla. BlackRock, che è un gruppo finanziario americano, gestisce un patrimonio, un fondo di investimento da quasi 1.300 miliardi di dollari tra azioni, titoli, reddito fisso, investimenti immobiliari. È uno dei principali, adesso non so dirvi se sia il più grosso al mondo, ma dovrebbe essere sicuramente tra i più grossi fondi di private equity al mondo, presente in 21 paesi, ha 6.000 dipendenti e oggi ha lanciato un'offerta per comprarsi la parte, la divisione fondi di investimento, quindi risparmio gestito, della Barclays, pagandola tra i 12 e i 13 miliardi di dollari. Se andasse in porto sarebbe la più grande acquisizione mai realizzata nel settore del risparmio gestito, di chi appunto gestisce fondi comuni e risparmio in generale. BlackRock potrebbe pagare metà in contanti e metà in azioni, lasciando a Barclays il 20% della nuova società. Ancora l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare già da domani e tra l'altro BlackRock metterà soldi suoi, ma non solo, perché sta cercando di raccogliere 3 miliardi di dollari attraverso un investimento che dovrebbe essere effettuato dai fondi sovrani del Qatar, del Kuwait. Quindi di Qatar abbiamo già parlato anche per via di Porsche, ma insomma Qatar e Kuwait, l'area dei golfi, i soldi ce li ha e potrebbero entrare nell'operazione mettendo 3 miliardi. Eh sì, perché Qatar è in contatto esclusivo anche con Porsche per investire dentro la società. Praticamente, secondo quanto ha scritto il Financial Times, la Qatar Investment Authority potrebbe arrivare a sottoscrivere il 25% della Porsche e le famiglie che la controllano, ossia la famiglia Porsche e la famiglia Peak, nel mese scorso avevano già deciso di lasciare entrare un nuovo investitore per ridurre i 9 miliardi di euro di debito che Porsche ha accumulato, per mettere assieme anche una quota di maggioranza in Volkswagen, perché insomma l'operazione con cui Porsche è arrivata a controllare Volkswagen ha portato a un indebitamento della casa automobilistica. Ma se in Gran Bretagna c'è chi ne approfitta della crisi per, ossia i fondi sovrani, ma non solo, per comprarsi pezzi di finanza britannica, Lloyds continua a utilizzare l'accetta, non solo Lloyds, anche Royal Bank of Scotland. 1660 posti di lavoro tagliati nei Lloyds come conseguenza della chiusura di tutte le 164 filiali della controllata Cheltenham e Gloucester. Salgono così a 4200 i licenziamenti operati dai Lloyds dallo scorso aprile, per cui stiamo parlando di un periodo brevissimo. E tra l'altro, oltre ai Lloyds, oggi anche il Royal Bank of Scotland ha annunciato altri 500 licenziamenti di propri dipendenti. Nel frattempo in America il Tesoro ha dato via libera al rimborso da parte di 10 banche dei fondi ricevuti come sostegno alla crisi tramite il cosiddetto Troubled Asset Relief Program, il TARP. I 10 istituti riacquisteranno le azioni proprie in mano al Tesoro, cioè le ricompreranno dal Tesoro che le aveva comprate per dargli una mano, per un totale appunto di 68 miliardi di dollari per 10 banche. E oggi il Centro Studi Mediobanca ha fatto il calcolo di quanto costi e stia costando ai governi il salvataggio del sistema finanziario delle banche. Ai governi europei è costato praticamente complessivamente 52 miliardi, mentre al governo americano 86 miliardi. Questo infatti è l'ammontare dei fondi pubblici già affluiti nelle casse delle principali banche europee, 52 miliardi, e 119 miliardi di dollari, quindi circa 86 miliardi di euro, versati dal governo americano. Ancora la produzione industriale in Germania, purtroppo c'è un calo inatteso, meno 2% rispetto a marzo e meno 21% rispetto all'anno prima, ma questo si sapeva. Il problema è il dato su marzo, e crolla l'export. Pensate che in Germania l'export ha fatto nel mese di aprile un 28,7% in meno. Praticamente da quando, mai così male, da quando è nata la Repubblica Federale Tedesca, dal 1949. Questo per dire che poi nelle cifre, che questa crisi sia epocale, ci sono pochi dubbi. E il gruppo tedesco Arcandor, proprietario tra l'altro del tour operator Thomas Cook, uno dei più grandi, anzi storici, penso in assoluto la prima agenzia di viaggio al mondo nella storia, quella dell'impero britannico, la Thomas Cook, e della catena di grandi magazzini KDV, ha fatto domanda di insolvenza, ha chiesto quindi la procedura fallimentare perché non riesce a ripagare i propri debiti. Passiamo all'Italia, giornata nazionale dell'innovazione, organizzata da Confindustria e dal Ministero della Pubblica Amministrazione. In un paese in cui le spese per ricerca e innovazione sono basse, non si arriva oltre l'1% del PIL e divise tra pubblico e privato, basse perché la media europea è il doppio, almeno il 2% del PIL, e come ha ricordato la Presidente di Confindustria Marcia Gaglia, investire in ricerca e innovazione è l'unica via per tornare a crescere. Il tema della ricerca e innovazione è uno dei temi fondamentali sui quali vogliamo lavorare. Non è vero che la crisi ci deve distogliere da questo problema, è chiaro che nella crisi tutti noi stiamo anche lavorando nell'emergenza della gestione dei momenti difficili, quindi il credito, la liquidità, gli ammortizzatori sociali, ma noi vogliamo lavorare soprattutto in una logica di medio termine, di capacità, di competitività delle nostre imprese nel medio termine, e siamo profondamente convinti che l'unico modo per poter avere una crescita solida nel futuro è proprio quella di investire molto, in modo serio, in modo non parcellizzato, nella ricerca e nell'innovazione. Credo veramente che la vera sfida è proprio quella di lavorare tutti insieme, lavorare mettendo insieme ognuno la propria responsabilità, le proprie competenze, e avere un sistema paese che decide di investire fortemente sulla ricerca e l'innovazione. Presente al giornata nazionale dell'innovazione anche il ministro, era infatti organizzata da Confindustria, dal Ministero per la Pubblica Istruzione, il ministro Brunetta, ministro appunto della Pubblica Amministrazione. Ebbene, Brunetta ha detto una cosa che ha fatto un po' rumoreggiare la sala, ve la facciamo ascoltare, un'idea che da più parti abbiamo già sentito, cioè che questa crisi stia avvantaggiando in maniera relativa, ci mancherebbe, ma chi ha il reddito fisso, chi appunto prende la busta paga, chiaramente non chi perde il lavoro, per cui alcune categorie, pensionati, dipendenti del settore privato, del settore pubblico, stanno aumentando il loro potere d'acquisto come effetto di mutui più bassi e di un'inflazione ferma all'1%. Un primo dividendo della crisi, al netto dei cassa integrati e trattino disoccupati, un primo dividendo della crisi è che è aumentato il potere d'acquisto di circa 15 milioni di lavoratori dipendenti. O si è mantenuto o è aumentato di 1 o 2 punti. Se poi a questi 15 milioni di lavoratori dipendenti noi sommiamo circa 16-17 milioni di pensionati che hanno avuto dinamiche simili per quanto riguarda redditi da pensione e con dinamiche simili ovviamente per quanto riguarda i prezzi, noi abbiamo anche per questi 15-16 milioni di pensionati un incremento, mantenimento per essere cauti, trattino incremento del loro potere d'acquisto. Ne deriva che abbiamo circa 30 milioni di redditi da lavoro dipendente, trattino pensioni, che in questi 12 mesi di crisi hanno mantenuto, se non incrementato, il loro potere d'acquisto. Questo spiega perché in Italia non ci sia la crisi sociale, questo spiega perché non ci siano particolari tensioni sociali nel nostro Paese, questo spiega anche, al di là delle valutazioni statistico standard, come sia diminuita la povertà in Italia, perché è ovvio, se aumenta il potere d'acquisto, soprattutto della componente del redditi da welfare, redditi da pensione, dal punto di vista marginale non può che diminuirsi la povertà. Sembra paradossale, rumoreggiate pure, ma queste sono le statistiche. Così il ministro Brunetta. Che la povertà sia un concetto relativo è ineccepibile da un punto di vista economico, più volte ne abbiamo parlato, si parla infatti di povertà relativa e non tanto di povertà assoluta, quella diciamo la media statistica quando guadagni meno della metà della media nazionale, ma in realtà poi la povertà è un concetto relativo, se tutti guadagnano più di te tu ti senti improvvisamente povero e viceversa, quindi nulla da dire su questo. Diciamo, sicuramente un po' di recupero di potere d'acquisto c'è stato, bisogna capire anche i livelli di partenza, perché sulle pensioni, diciamo, l'erosione in questi anni, grazie anche al passaggio di lira euro, era stata molto forte, e questo vale anche per molto del lavoro salariato. Va bene, lo abbiamo detto anche noi, portato, io non so se, cioè non sarei così enfatico forse, però è vero che in questo momento questa crisi ha distrutto i patrimoni dei molto ricchi, i grandi manager, i grandi, diciamo, geni della finanza di Wall Street, della City e anche di Milano, ha distrutto ricchezza immobiliare in chi aveva fatto speculazioni immobiliari, ha fatto perdere posti di lavoro purtroppo all'industria, anche se in Italia non in maniera ancora definibile drammatica, ma sicuramente preoccupante, fa guadagnare meno le libere professioni alcune, diciamo, chi ha la busta paga dalla crisi non è toccato nel senso come potere d'acquisto, o perdi il lavoro, allora sì, lì è un dramma, ma diciamo non ne hai un danno immediato, i mutui sono più bassi, l'inflazione è ferma all'1%, ecco, non lo userei come però necessariamente un elemento enfatico per dire Dio come si sta bene. Comunque, poi parleremo anche di management e capitali, perché Carlo De Benedetti non si dimetterà dalla presidenza, c'è stata un'offerta dei Segre, ma intanto il finanziere Giovanni Tamburi ha votato contro l'aumento di capitale, quindi l'aumento di capitale non si è fatto, insomma un po' di maretta dentro la società di De Benedetti. Adesso però il primo tema, come sentite dalla nostra base, che riguarda la vicenda Fiat Chrysler. Fiat Chrysler, il giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Ruth Bader Ginsburg, ha deciso di ritardare temporaneamente la vendita di Chrysler e Fiat. Perché? Perché il ricorso ha dato ragione, in sostanza, al ricorso presentato da tre fondi pensione dell'Indiana, che possiedono l'1% dei circa 7 miliardi di debito che ha la Chrysler, che dicono di essere discriminati dall'accordo tra Fiat e Chrysler per due motivi sostanzialmente. Premia i creditori non assicurati prima di quelli assicurati, utilizza i fondi messi a disposizione dal Congresso solo per le banche. E poi c'è la scadenza del 15 giugno, perché se l'accordo di cessione non sarà completato entro quella data, Fiat potrà infatti decidere di ritirarsi dall'alleanza. Devo dire che oggi Marchionne ha detto nemmeno dopo la scadenza del 15 giugno abbandoneremo l'accordo, quindi Marchionne ha detto mai a chi gli ha chiesto se dopo il 15 giugno potrebbero ritirarsi. Mario Platero, corrispondente sulle 24 ore dagli Stati Uniti, buonasera. Buonasera, eccoci. Allora, tu oggi su Sole 24 ore in realtà descrivi molto bene, e vorrei che ce lo ricordassi, perché un accordo che penalizza non solo i fondi pensione e i pensionati dell'Indiana, ma penalizza anche le grandi banche che avevano prestato soldi alla Chrysler, sia stato digerito meglio dai grandi colossi bancari, JP Morgan Chase, Citigroup, e molto meno digerito dai pensionati dell'Indiana. Ce lo puoi riassumere? Beh, direi di sì. I grandi gruppi bancari ovviamente hanno relazioni con Washington, relazioni, diciamo così, ongoing, erano assolutamente scontenti di questo accordo tempo fa, a partire da Jamie Dimon di JP Morgan, ma poi alla fine hanno abbozzato. E hanno abbozzato perché? Beh, perché da Washington hanno ottenuto molti miliardi di dollari e di prestiti ponte, perché Washington può imporre regole sui loro compensi e sulle loro strutture manageriali, perché Washington poi, diciamo, avrà dei contratti potenziali che metterà sul mercato attraverso il Tesoro, ovviamente, che è il punto di riferimento principale per emissioni di obbligazioni, per emissioni di titoli e così via, che avvengono attraverso queste banche, e quindi non vogliono essere, virgolette, nella lista dei cattivi. Dunque, il grande sistema bancario newyorkese in qualche modo alla fine abbozza, rinuncia, gioca con Washington sulla stessa linea, sapendo che poi qualche cosa recupererà da un'altra parte. Il fondo pensione dell'Indiana invece no, non recupererà un bel niente, perché il fondo pensione dell'Indiana ha investito questi soldi esattamente come avevano fatto le banche, sapendo di avere delle tutele legali che garantivano il loro prestito a fronte di asset della Chrysler, a fronte di attività patrimoniale della Chrysler in caso di fallimento, e questa loro prerogativa, questa loro posizione di creditore chirografario, con dunque una precedenza tecnica su qualunque altro creditore ad utilizzare, ad avere gli asset, è stata scavalcata ed ignorata. Il governo sostiene che la loro decisione è stata assolutamente legale. Questi fondi dell'Indiana sostengono invece che il governo ha prevaricato non soltanto quelli che erano i poteri del Tesoro e di Washington, ma addirittura la legge, quindi mettendo a rischio e creando un precedente sulla validità contrattuale di certi prestiti, che è poi così, la piattaforma principe su cui poggia il sistema capitalistico americano. Dunque il problema ha assunto una dimensione leggermente più ampia. È chiaro che parte da questi fondi pensione, poi fondi pensione di poliziotti, di insegnanti, di personaggi così della classe piccola media borghesia dell'Indiana, i quali si domandano: ma come mai i nostri vicini del nord, l'Indiana e a sud del Michigan, confinano, sono due stati confinanti, e cioè gli operai della Chrysler riescono ad avere dei vantaggi relativi, ovviamente, perché molti sono stati licenziati e così via, ma comunque noi, perché noi dobbiamo pagare per dei vantaggi degli operai della Chrysler? E dunque il problema è un problema anche socio-economico, oltre che semplicemente economico. Dunque, quando la questione diventa così complessa e con ripercussioni potenziali addirittura di tipo strutturale, di creare dei precedenti, beh, direi che è quasi un dovere della Corte Suprema di intervenire, quantomeno per spazzare la strada e al precedente, certo. Per cui dici. Ecco, però in tutto questo c'è un rischio, perché nel momento in cui invece la Corte dovesse non limitarsi a così considerare la vicenda e poi cancellarla sulla base di tecnicismi, e quindi anche superare questi possibili nuvoloni che si aggirano sopra questo accordo, ecco che se invece si dovesse decidere di andare avanti e ascoltare il caso, beh, allora la vicenda si fa più complicata, perché la signora Ginsburg è della piattaforma liberale della Corte Suprema, ma la maggioranza della Corte Suprema è conservatrice, e molti dei conservatori non hanno amato il modo in cui Barack Obama e la sua amministrazione hanno salvato, fra virgolette, il settore automobilistico. General Motors ha ricevuto 53 miliardi di dollari. La Chrysler appunto è stata salvata, ma sono stati penalizzati alcuni creditori, e così via, così via. Quindi non è implausibile che questa cosa diventi così leggermente più antipatica e complessa. La speranza. Ecco Mario, su questo la domanda, infatti, perché alcuni scrivono: ma cosa ci interessa a noi dell'Indiana? Attenzione, perché ci interessa poco dell'Indiana, forse in generale, ma nel momento in cui sono i fondi pensione dell'Indiana che hanno fatto ricorso alla Corte Suprema, la Corte Suprema ha bloccato l'accordo Fiat Chrysler, beh, in quanto italiani ci interessa e non poco, non fosse altro per capire se quanto grave può essere questo intoppo. Infatti vorrei capire con te, Mario, alla fine c'è il rischio che nell'ipotesi peggiore la Corte Suprema possa bloccare l'accordo? Perché voglio dire, se la Corte Suprema dovesse dare ragione ai fondi pensione e chiedere un trattamento simile a quello degli operai della Chrysler, questo potrebbe vanificare l'accordo con Fiat? Beh, questo ovviamente rimette le carte in gioco. Quello che la Corte Suprema dovrà analizzare è se la sentenza del giudice Gonzales, il giudice fallimentare che ha stabilito chi veniva pagato quanto, in che termini e come, amministrando dunque la procedura fallimentare di Chrysler, che era in amministrazione controllata per sistemare accordi con creditori, con lavoratori, con clienti e così via, con i concessionari, eccetera, eccetera. Ebbene, è un accordo quadro che è stato raggiunto in corte fallimentare, vorrei dire un accordo quadro che era stato più o meno disegnato già dentro le stanze del Tesoro americano, d'accordo con Chrysler, d'accordo con Fiat, un po' d'accordo con tutti per salvare questa situazione. Ecco, se la Corte Suprema rileverà che il fondo pensione dell'Indiana è stato trattato ingiustamente, si dovranno rivedere quantomeno alcune delle sistemazioni finanziarie che sono state fatte in questo accordo quadro deciso in Corte fallimentare. E dunque si deve capire quanto sarà rimesso in gioco. Il Tesoro ha inviato una nota irritatissima perché diceva che alla fine il fondo pensione dell'Indiana stava facendo tutto questo rumore per una differenza di 5 milioni di dollari e che quindi era amorale che loro facessero questa piazzata in Corte Suprema. La verità è che se si tratta di 5 milioni di dollari si risolvono, ma se torna in ballo l'intero ammontare di credito, che era di 6-7 miliardi certo, di dollari, allora la cosa ridiventa. Cambia completamente il perimetro dell'operazione e anche i costi per la Fiat. Grazie Mario Pratero, in collegamento con noi da New York. Questo per quello che riguarda, diciamo, il fronte a questo punto giudiziario nel rapporto, nell'operazione Fiat Chrysler. Nel frattempo, in questi istanti, il segretario del Tesoro americano Tim Geithner ha detto che gli Stati Uniti si trovano in una profonda e lacerante recessione e che il mercato immobiliare resta in difficoltà. Geithner non se lo becca però il nostro gufo oggi, non so se l'abbia mai beccato, perché ha aggiunto che la velocità del declino dei prezzi immobiliari è iniziata a scendere, che tradotto vuol dire che insomma i prezzi scendono meno di prima. E va bene, per quello che riguarda l'auto, adesso parleremo anche dei veicoli commerciali Fiat, che hanno avuto un ottimo dato a livello europeo. Oggi il ministro Tremonti, che era in Lussemburgo, è andato alla sede della BEI, della Banca Europea degli Investimenti, è arrivato in 500, la nuova 500, e ha detto: la prossima volta vorrei tornare con una Opel, ma appunto l'ho detto scherzando. Vedo molti messaggi irritati per la frase che abbiamo fatto ascoltare del ministro Brunetta, ne riparleremo anche più avanti. Sono d'accordo con chi dice: attenzione, non si può guardare solo un anno, in cui secondo me, ripeto, ha ragione Brunetta rispetto a altre categorie, lavoratori autonomi, con mondo del commercio, il lavoro dipendente ha recuperato qualcosa in potere d'acquisto, però ha anche ragione chi dice: guardiamo la serie storica negli ultimi 6-7 anni. E infatti lì l'ha fatto la Banca d'Italia, ne ve la citeremo più avanti, e lì non ci sono dubbi, il potere d'acquisto fermo per il lavoro dipendente in aumento del 13% per il lavoro autonomo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per commentare tra pochi minuti la borsa. Ha ragione chi scrive al 349-238-6666 che la benzina a 1,33 euro, non è con un barile, con un prezzo del petrolio a 69 dollari, non si capisce perché arrivi a questo livello, se toccò 1,40 euro quando il barile era a 150 dollari, in effetti. Avete ragione, abbiamo fatto anche una puntata il 2 giugno su questo con i vari ospiti, hanno sempre tutti ragione, abbiamo sempre torto noi automobilisti e appunto consumatori di benzina. Cosa volete che vi dica? Invece vorrei parlare di restare sul tema delle quattro ruote e del gruppo Fiat, ma per parlare dei veicoli commerciali della Fiat, perché sono usciti dei dati di netto calo in Italia e in Europa, ma la quota del gruppo Fiat aumenta. Grazie allora all'amministratore delegato di Fiat Automobiles e Fiat Professional, dottor Lorenzo Sistino, in collegamento con noi. Buonasera. I dati della divisione veicoli commerciali, che possiamo ricordare innanzitutto raggruppano i cosiddetti furgoni, ma anche che cosa? Così capiamo anche il perimetro complessivo. Per veicoli commerciali si intendono tutti i veicoli per il trasporto delle merci fino a 35 quintali, quindi per quanto riguarda la gamma Fiat partiamo dai piccoli van quali la Panda, la Punto, per arrivare al Ducato Maxi, appunto, che raggiunge i 35 quintali. Quindi tutti quei veicoli piccoli o un po' più grandi che servono per trasportare le merci. Per noi si parla del Ducato, dello Scudo, del Fiorino, l'ultimo nato, del Doblò e poi, come accennavo prima, dei piccoli van, la Panda e la Punto. Come sta andando la parte veicoli commerciali? Perché il dato che abbiamo relativo all'Italia ha visto un calo significativo anche a maggio, meno 25%. Anche in Europa c'è stata una contrazione, ma se ho ben capito la vostra quota è aumentata. Sì, il mercato dei veicoli commerciali purtroppo in Italia, ma anche negli altri paesi europei, è in forte pressione. In Italia ha segnato un altro risultato negativo di meno 25, in Europa questo mese sarà intorno al 35-36% in meno. Noi però abbiamo fatto la nostra parte, siamo andati bene, abbiamo raggiunto in Europa il 15,2% di quota, che è un risultato storico, non l'avevamo mai fatto così bene, siamo soddisfatti, anche se purtroppo sarebbe meglio fare un buon risultato di quota quando c'è anche un buon mercato. Però voglio dire, il mese passato abbiamo fatto il 10% di quota sulle vetture in Europa e questo è stato anche un record da diversi anni. Questo mese l'abbiamo fatto sui veicoli commerciali, quindi insomma segno che le cose stanno andando abbastanza bene, che stanno premiando gli sforzi fatti. Per quanto riguarda direi sia le vetture che i veicoli commerciali, il nostro impegno sull'ecologia è quello che ci sta premiando. La Fiat è il brand con le minori emissioni sulle auto in Europa e anche sui veicoli commerciali facciamo parecchio, non a caso abbiamo la gamma di veicoli a metano più ampia sul mercato. Abbiamo recentemente lanciato il Ducato a metano, avevamo già da alcuni anni il Doblò a metano e fra qualche mese lanceremo anche il Fiorino a metano. E questo direi che non solo in Italia ma anche all'estero i veicoli con l'alimentazione a metano stanno avendo successo, anche perché la sensibilità all'ecologia è un fatto ormai sicuramente europeo, forse anche mondiale. E poi sicuramente stiamo raccogliendo i frutti di una gamma di prodotto molto molto ampia. La Fiat Professional è uno dei pochi brand che offre quattro veicoli al di là dei van, e non tutti ce l'hanno. Noi abbiamo il Fiorino, il Doblò, lo Scudo, il Ducato e poi anche la scelta fatta ormai da alcuni anni sulla rete, che è quella di professionalizzare una parte in base a standard e livelli di servizio per i veicoli commerciali, perché le esigenze dei clienti dei veicoli commerciali sono completamente diverse da quelle delle vetture. Ecco, dico a chi ci scrive al 349-238-6666 che non stiamo parlando della divisione Iveco, ma alcuni di voi giustamente ci chiedono, ma in realtà non parliamo di Iveco, parliamo dei veicoli commerciali che sono appunto, se mi passa diciamo, la definizione, così faccio capire a tutti, dottor Sistino, sono veicoli presi diciamo dall'uso civile, se così posso dire, e utilizzati per trasporto di merci, ma non i camion, non il prodotto Iveco. Non sono i camion, non sono necessariamente dei veicoli di uso civile, certo. Perché il Ducato, lo Scudo, lo Blu sono veicoli specifici, però ci fermiamo a 35 quintali e quindi non parliamo dei camion, per intenderci, che invece partono da 35 quintali e vanno in su. Grazie e in bocca al lupo come sempre facciamo a tutti i nostri ospiti, grazie all'amministratore delegato di Fiat Automobiles e Fiat Professional Lorenzo Sistino. Grazie a voi, buonasera. E adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi la borsa. Continuano ad arrivare messaggi sulla la dichiarazione del ministro Brunetta, che ha detto stanno meglio adesso, è aumentato il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti. Abbiamo un insieme di dati, ne riparleremo anche tra 10 minuti. Ripeto, è importante vedere la serie storica, non solo l'ultimo anno, ed è importante anche ogni tanto parlare di quoziente familiare, e cioè non esiste solo il singolo lavoratore, tu puoi essere un lavoratore dipendente autonomo e avere il figlio precario che perde il lavoro, o viceversa la moglie che perde il lavoro, è chiaro che il reddito ne subisce un danno. E infatti la Banca d'Italia, quando studia il reddito delle famiglie, non il reddito del singolo individuo. Di nuovo in diretta, dunque la borsa, un po' di pazienza per gli altri temi. La borsa oggi tutto sommato bene a Milano, perché nel resto d'Europa hanno chiuso addirittura in leggero calo alcuni listini, penso a Londra e penso a Francoforte, meno 0,1, Parigi più 0,2, l'America perde lo 0,4% sul Dow Jones. Milano invece ha chiuso con un più 0,90 sul FTSE MIB, il nuovo indice, il peggior titolo Bulgari meno 2,4, Prismian meno 1,90, Saip meno 1,6 e Telecom che perde l'1,5. Anche Fiat perde, non in maniera diciamo drammatica come alcuni si attendevano, perde l'1,4%, Ansaldo e STS perde l'1%. Il rialzo è stato guidato da Enel più 4,8 come in pregilo, la Popolare di Milano più 4,4, Parmalat più 4,1, ST Microelectronics più 4, Mediobanca più 3%, Snam più 2,60, Buzzi Unicem più 2,1, A2A più 1,80%, Intesa 1,5% di rialzo. Chiudiamo con Mediolanum e Alleanza e anche l'Ottomatica che hanno guadagnato l'1,3%. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Come mai di nuovo Enel, e questo è abbastanza interessante, e poi in pregilo? Allora, bisogna dire che Enel ha chiuso finalmente in rialzo, sì, mentre finalmente è in corso l'aumento di capitale. Infatti il 12 giugno, che è venerdì, si chiuderà la trattazione dei diritti di opzione legati all'aumento di capitale da 8 miliardi di euro. Allora, da lunedì scorso, che è il giorno in cui è iniziata la ricapitalizzazione, a ieri le azioni hanno infatti perso il 6%, mentre dalla chiusura del 2 giugno hanno ceduto oltre l'8%. Allora, in realtà gli operatori avevano preannunciato un cambio di rotta per le azioni in prossimità appunto della chiusura delle negoziazioni dei diritti. Inoltre oggi bisogna sottolineare che il direttore finanziario del gruppo, secondo le dichiarazioni riportate dalla Repubblica, ha stimato un valore per Green Power, per Enel Green Power, che dovrà essere ceduta tra 10 e 15 miliardi di euro. Questo sui due titoli. Molto bene, devo dire, anche la Popolare di Milano rispetto a altri gruppi bancari, più 4,4%. Parmalat più 4,1%. In realtà anche Monte dei Paschi ha guadagnato l'1%, il Banco Popolare l'1%, più in frenata alla fine Unicredito, che ha chiuso in variata ma era tornata sui 2 euro per azione. Come mai la Popolare di Milano stacca, diciamo, tutte le altre azioni legate al mondo bancario? Allora, in realtà la Popolare di Milano ha iniziato a salire dopo la metà seduta e gli operatori hanno parlato di ricoperture in un momento di mercato in cui sono praticamente assenti, questo gli operatori lo ripetono sempre, gli investitori istituzionali, quindi i fondi, e sono soliti infatti motivare il rialzo o ribasso delle azioni con movimenti più speculativi da parte dei trader piuttosto che dei fondi. Infatti per la Popolare di Milano ad esempio oggi non ci sono notizie, così come ad esempio è stato estremamente volatile l'andamento di Unicredito, che questa mattina era tornato a toccare i 2 euro, mentre poi ha chiuso sulla parità, pur in assenza, sì, appunto di notizie sul mercato. Allora, alcuni di voi ci chiedono perché c'è un nuovo indice, perché si sono fuse la Borsa di Milano e quella di Londra, l'abbiamo già raccontato, il nuovo indice si chiama FTSE MIB, ossia FTSE è lo storico indice, ma il MIBTEL della borsa londinese. FTSE MIB sta a indicare appunto la fusione tra le due borse. Chiusa la parentesi, andiamo avanti invece con i titoli. Nel gruppo De Benedetti, le CIR oggi hanno chiuso in rialzo di 1%. Allora, che cosa è successo? All'assemblea di management dei capitali, Carlo De Benedetti ha annunciato che non si dimetterà né dalla presidenza della società né dalle cariche di presidente di CIR, Confide e appunto MNC. Perché non si dimetterà dalla società? Perché c'è un'offerta pubblica di acquisto preannunciata dai Segre e ritiene De Benedetti di dover rimanere provvisoriamente presidente fino al compimento di questa vicenda. Nel frattempo l'assemblea degli azionisti di MNC ha bocciato la proposta di delega al consiglio di amministrazione di aumento di capitale. In sostanza non è passato l'aumento di capitale, ha votato contro infatti l'azionista second tip, ossia Giovanni Tamburi, che ha il 15% del capitale, e votando contro non è passata la proposta. Chiuso anche la parte che riguarda De Benedetti, torniamo sui titoli. ST Microelectronics più 4%. Sì, allora STM oggi ha beneficiato del buon andamento del comparto tecnologico grazie alle indicazioni positive che sono arrivate dalla concorrente americana Texas Instruments. Infatti la società degli Stati Uniti, appunto, ha rivisto al rialzo le previsioni per i risultati del secondo trimestre, stima un utile per azione quindi tra i 0,14 e 0,22 dollari contro un'iniziale indicazione di 0,01 e 0,15 dollari, e questo appunto ha trainato al rialzo tutto il comparto, che in Europa ha chiuso più o meno con un rialzo dell'1,78%. In pregiro l'abbiamo detto, lo dico a chi scrive: BNP Paribas ha alzato il rating, poi c'è la scadenza del patto il prossimo 12 giugno, quindi un po' di speculazione sul titolo. I migliori e i peggiori: Banca Profilo più 17, Telecom Italia Media più 17%, Uniland più 13, ancora AF più 7%, IPI più 42%. I peggiori: Pirelli Real Estate meno 5,7 e poco altro, Carrefour meno 4,80, Class meno 4,3%. Grazie a Livia Zancaner, il Sole 24 Ore Radio Core. Adesso il nostro GR, poi torniamo sulla dichiarazione di Brunetta. C'è chi dice: vabbè, se serve un anno di crisi per recuperare un po' di potere d'acquisto, ci dobbiamo augurare 10 anni di crisi, così recuperiamo tutto quello perso nel passaggio di lira euro. È chiaro che questa è una provocazione, si tratta di ragionare su benefici anche indiretti e non voluti di questa crisi per chi ha la busta paga e per cui non ha avuto un danno sul potere d'acquisto e quindi ha recuperato qualcosa, e in generale invece la tendenza degli ultimi 10 anni, certificata anche dalla Banca d'Italia, in cui i lavoratori autonomi hanno visto aumentare il loro potere d'acquisto ben più dei lavoratori dipendenti. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, chi ci chiede su Management Capitali la distribuzione del dividendo, l'assemblea l'ha votata, forse l'ho messo a dire io, 62 centesimi per azione tramite la riduzione del capitale. Quello che non è passato è l'aumento di capitale. Questo per quello che riguarda la società presieduta da Carlo De Benedetti. Invece torniamo sui temi e le notizie principali di questa giornata. Tra l'altro molti di voi ci chiedono anche della Germania, e torneremo su una scelta. La Germania si è molto mossa per salvare la Opel, non per salvare invece un colosso come Arcandor. Stiamo parlando di 50.000 dipendenti, anche di questo parleremo. Ripartiamo però dalla cosa che vi ha più fatto discutere, ossia la dichiarazione di carattere economico del ministro Brunetta oggi, diciamo, durante i lavori della Giornata Nazionale dell'Innovazione. Perché Brunetta ha sostenuto, adesso lo riascoltiamo, che per 30 milioni di lavoratori dipendenti e di pensionati la crisi ha portato un beneficio di fatto, ossia un aumento del potere d'acquisto grazie all'incremento delle retribuzioni e alla diminuzione dell'inflazione. Sentiamo. Un primo dividendo della crisi, al netto dei cassi integrati e trattino disoccupati, un primo dividendo della crisi è che è aumentato il potere d'acquisto di circa 15 milioni di lavoratori dipendenti. O si è mantenuto o è aumentato di 1 o 2 punti. Se poi a questi 15 milioni di lavoratori dipendenti noi sommiamo circa 16-17 milioni di pensionati che hanno avuto dinamiche simili per quanto riguarda redditi da pensione e con dinamiche simili ovviamente per quanto riguarda i prezzi, noi abbiamo anche per questi 15-16 milioni di pensionati un incremento, mantenimento per essere cauti, trattino incremento del loro potere d'acquisto. Ne deriva che abbiamo circa 30 milioni di redditi da lavoro dipendente, trattino pensioni, che in questi 12 mesi di crisi hanno mantenuto, se non incrementato, il loro potere d'acquisto. Questo spiega perché in Italia non ci sia la crisi sociale, questo spiega perché non ci siano particolari tensioni sociali nel nostro paese, questo spiega anche, al di là delle valutazioni statistico standard, come sia diminuita la povertà in Italia, perché è ovvio, se aumenta il potere d'acquisto, soprattutto della componente del redditi da welfare, redditi da pensione, dal punto di vista marginale non può che diminuirsi la povertà. Sembra paradossale, rumoreggiate pure, ma queste sono le statistiche. E allora riprendiamo alcuni spunti che sono arrivati. Io ripeto, mi sembra inattaccabile il ragionamento di Brunetta per quello che riguarda il 2008-2009. La crisi ha colpito soprattutto alcune categorie, è partita dalle banche, dalla finanza, ma non solo, i lavoratori autonomi e alcune categorie commerciali e professionali. Non ha colpito chi ha il reddito fisso, chi ha la busta paga, a patto che il lavoro l'abbia tenuto. Alcuni di voi scrivono: sì, ma non si considera il nero e l'evasione, lo sappiamo, il nero e l'evasione purtroppo non sono considerati, ma diciamo a perimetro costante i danni più forti si sono avuti in altri settori. Mi sembra invece più interessante il ragionamento che fanno altri ascoltatori al 349-238-6666 e che dicono in sostanza: può essere anche vero per quest'anno, per l'ultimo periodo, però andiamo a vedere la serie storica. E andiamo a vederla allora questa serie storica utilizzando i dati della Banca d'Italia, così nessuno può polemizzare. Nell'indagine condotta sul bilancio delle famiglie italiane, perché poi uno può avere una famiglia in cui c'è un lavoratore dipendente, un autonomo e magari il figlio precario, per cui le famiglie italiane, la Banca d'Italia ha guardato i redditi familiari dal 2000 al 2006, considerando anche, quindi al netto dell'inflazione, e ha scoperto che dal 2000 al 2006 il reddito di una famiglia dove il capofamiglia ha un lavoro dipendente è cresciuto dello 0,3% complessivo al netto dell'inflazione. Se invece il capofamiglia ha un lavoro autonomo, nello stesso periodo 2000-2006 il reddito, sempre in termini reali, quindi una volta calcolata anche l'inflazione, è cresciuto del 13%. Questo taglia, a mio avviso, la testa al toro sull'analisi storica, non su quella dell'ultimo anno, dove, a mio avviso, ripeto, ha ragione Brunetta. Ancora, l'ultima audizione del Servizio Studi della Banca d'Italia, audizione alla Commissione Lavoro del Senato dello scorso 21 aprile, il dirigente della Banca d'Italia, Andrea Brandolini, ha fotografato quella che è stata la ridistribuzione del reddito in Italia, più che l'impoverimento complessivo. Dice infatti la Banca d'Italia: non si può affermare che sia aumentata la povertà in Italia. Quello che è successo, cifre alla mano, e cito testualmente, è che c'è stato un travaso di reddito orizzontale fra varie categorie sociali, a vantaggio di autonomi, dirigenti e pensionati, e a svantaggio di operai, impiegati e quadri. Tant'è che gli aumenti dal 93 al 2006, quindi parliamo di 13 anni, degli operai, degli impiegati, dei quadri, sono stati meno della metà rispetto agli aumenti degli autonomi, dei dirigenti e anche dei pensionati, anche se poi gli autonomi sono quelli che hanno avuto più forte l'aumento. Come risultato, e concludo con il rapporto della Banca d'Italia, la percentuale dei poveri, cioè quelli che percepiscono un reddito del 60% inferiore al 60% di quello medio, è aumentato nella categoria impiegati, quadri e operai dal 27 al 31% ed è scesa nella categoria lavoratori autonomi. Spero di aver chiuso con questo l'analisi, perché si può aver ragione nella fotografia dell'ultimo anno e si può invece, a mio avviso, non vedere tutta la fotografia complessiva, cioè cosa è successo nel passaggio, soprattutto lira-euro. Non è per essere pilateschi, se Brunetta si riferisce all'ultimo anno, a mio avviso ha ragione, se si riferisce all'andamento degli ultimi decenni, a mio avviso non ha ragione, ma il mio punto di vista non è così importante. Ascoltiamo invece quello del ministro Tremonti su un'altra notizia, ossia la finanziaria del 2010. Oggi, al termine del vertice Ecofin, Tremonti ha detto: non vi sarà una stangata. Se la domanda è fate più deficit e quindi fate più rischio per il paese, fate alla fine più tasse, più costi per la gente, la risposta è no. Non è la soluzione fare più deficit, perché apre solo a più rischio e più tasse. Quindi usiamo bene le risorse che ci sono, che sono comunque moltissime. Quando l'accusa è non hai sfondato il deficit, hai solo spostato fondi, sì, in questo momento spostare fondi da altre causali, che so, rimettere in bonus aree industriali agli ammortizzatori sociali, cos'era la scelta giusta? Tutto qua, insomma, ecco. E quindi no stangata nella prossima finanziaria e aumentare il deficit, l'avete appena sentito, secondo il ministro Monti, non è la soluzione. Le informazioni per chi è in viaggio e poi parliamo di un altro settore produttivo, o meglio un settore economico, mi riferisco alle compagnie aeree, un anno, il 2009, peggiore anche dell'11 settembre 2001, anche per colpa della crisi, ci mancherebbe, ma delle videoconferenze, insomma della maggiore sobrietà, infatti... In difficoltà sono soprattutto le classi più care, la business e la prima classe. minuti, ultima parte di Focus Economia. Vedo che il tema suscitato, sollevato da Brunetta, continua a generare i vostri messaggi. Attenzione, perché i dirigenti spesso hanno la trattenuta anche alla fonte, non è detto che siano sempre... diciamo autonomi, lavoratore autonomo è anche un'altra cosa, lo dico a chi scrive, e sono d'accordo con chi dice che comunque il problema resta l'altissima evasione fiscale di questo paese, più alta di tutta la media europea, e il nero soprattutto in certe regioni del paese, perché lì poi tutte le statistiche sballano. Comunque sui dati della Banca d'Italia non ho nessun timore di smentita e per favore almeno lasciamo la Banca d'Italia fuori dalle valutazioni politiche, lo dico a chi scrive e vede. La campagna elettorale è finita, se non se ne fosse accorto, la campagna elettorale è finita. Comunque, le compagnie aeree peggio dell'11 settembre 2001. Peggio dell'11 settembre lo ha detto praticamente la IATA, che è l'organismo internazionale più rappresentativo sul fronte delle compagnie aeree, e ha detto in sostanza ci sono 180 milioni di passeggeri in meno rispetto allo scorso anno, quelli che voleranno nel 2009, le perdite delle varie compagnie aeree arriveranno a 9 miliardi di euro, ma soprattutto vi sarà una contrazione dei ricavi del giro d'affari pari a 80 miliardi di euro. Ecco perché il numero uno della IATA, Giovanni Bisignani, ha detto la crisi è dura e peggio del famoso attacco alle torri gemelle americane. La scheda. Dissolti i segnali di rallentamento della crisi intravisti a inizio anno, sul radar delle compagnie aeree si profilano per quest'anno perdite per 9 miliardi di dollari. Un altro anno nero dunque per il settore dei cieli, che aveva già chiuso il 2008 con un rosso di oltre 10 miliardi di dollari. Ma se 12 mesi fa l'imputato era il caro petrolio, ora è la recessione economica a pesare come un macigno. Tanto che la situazione attuale è considerata addirittura peggiore di quella seguita agli attentati dell'11 settembre 2001. Allora, infatti, alla caduta dei ricavi seguì una ripresa del settore alimentato da un'economia forte. Quest'anno, invece, è atteso un calo dei ricavi senza precedenti. 80 miliardi di dollari svaniranno per il calo della domanda. E con l'economia che non torna a crescere, cambia innanzitutto il popolo dei viaggiatori. Per effetto della crisi, infatti, quest'anno voleranno 180 milioni di passeggeri in meno, con posti vuoti soprattutto in classe business, quella che più incide sul fatturato delle società. Uno scenario a cui le compagnie rispondono con l'impegno di tagliare i costi e velocizzare le procedure per il passeggero. Per esempio, 16 compagnie hanno già detto addio alla carta di imbarco, sostituita da un'immagine codice inviata sul cellulare del cliente. Un processo di semplificazione tra biglietti elettronici e check-in self-service che nel 2008 ha già permesso risparmi per 4 miliardi di dollari. Ora, proprio ieri abbiamo dedicato una puntata ai nuovi stili di consumo che probabilmente resteranno anche dopo, anche quando l'economia sarà tornata a crescere. Un po' più di sobrietà non fa mai male, a nostro avviso. Forse anche usare le videoconferenze, come si scopre. I video non hanno ucciso solo le star della radio, come cantava una canzone, ma forse ammazzano anche una cinquantina di compagniere che hanno già che sono già sospese e altre 50 compagniere a rischio. Forse anche fare una videoconferenza invece che andare in aereo forse potrebbe essere un elemento di maggiore sobrietà, dipende quello che si ha da dire poi nella vita. Professor Jarak, buonasera. Buonasera a lei. Lei è docente al Bocconi di Milano, allo SDA Bocconi, di marketing del trasporto aereo. Mi dica una cosa, pesa veramente la crisi delle grandi banche, dei grandi gruppi, della corporate America, non solo, o cambiano anche gli stili di vita? Guardi, le rispondo in due modi. Se noi guardiamo i 50 migliori clienti di British Airways, sono 50 banche, istituzioni finanziarie. È evidente che la crisi di queste porta a una riduzione del fatturato, come dicevate prima nella scheda, prima di tutto dei segmenti premianti, quindi biglietti business class o addirittura di prima classe. Non c'è dubbio che stia anche venendo a causa della crisi, ma in realtà è un processo che per le videoconferenze data indietro fin dal 2001, proprio in seguito all'effetto 11 settembre, che stia maturando un nuovo stile di consumo e di relazione tra le aziende e le imprese. La videoconferenza per alcune tipologie di relazioni, magari per alcuni processi relazionali, è una modalità certamente efficace per stringere i primi contatti e i primi affari. Dipende poi dalle aree geografiche in cui andiamo a vedere il contesto. Certo, tra l'altro, oltre che calare complessivamente di 80 miliardi di ricavi, avere già 100 compagnie aeree su 230 della IATA o sospese o a grosso rischio, abbiamo visto anche alcune misure prese. Per esempio, 16 compagnie aeree hanno fatto scomparire la carta all'imbarco, ci si può presentare con un messaggino MMS sul telefonino con la foto. Insomma, dovrebbe snellire le procedure, come ricordava la scheda, anche permettere un risparmio di qualche miliardo euro. E abbiamo visto svuotarsi soprattutto le classi aeree più care, prime e business. Questo vuol dire che, però, nella sua analisi, Jarak, quando tornerà a marciare l'economia e la finanza, ripartirà anche il trasporto aereo, o avremo un cambiamento strutturale? Ma guardi, io voglio essere ottimista, anche perché c'è una correlazione diretta tra andamento del PIL e domanda di trasporto aereo. Quindi a mio avviso non c'è dubbio che con la ripresa economica riprenderà la domanda di trasporto aereo. Il tema naturalmente è vedere se riprenderà esclusivamente in volumi, vale a dire in passeggeri, o anche in valore, quindi in termini di biglietti premianti. Faccio solo riferimento al fatto che una volta che le imprese tagliano i budget di trasporto e costringono o spingono il loro dipendente a volare in classe economica, devo dire che forse potrà essere difficile che ritorneranno a spendere di più in classe business. Quindi potrebbe esserci un cambiamento strutturale ancora una volta nel rendimento medio per posto che le compagniere potranno portare a casa. Sì, diciamo che o dimostri che non hai dormito, che hai degli acciacchi veramente da causa contro l'azienda, o se no non si capisce perché dobbiamo volare in business. Ma l'altra domanda è, non è che in questa crisi, in questa difficoltà a pagare i voli dei manager, si inseriscono anche le compagnie low cost? Abbiamo visto anche alcuni regnanti d'Europa utilizzare le compagnie low cost. Forse una volta che vola, un po' più scomoda, però nel posto ci arriva, no? Ma guardi, le rispondo con un'osservazione che avevo fatto di Gualtono qualche tempo fa all'amministratore delegato di EasyJet, dicendo: ma scusi, ma quali sono le sue mosse competitive nei confronti di Ryanair? Lui mi rispose: ma guardi che il nostro concorrente non è più Ryanair, è British Airways, operiamo sugli stessi aeroporti con un numero di frequenze significativo, e quindi in effetti si tratta di una diversa composizione del valore. Certo, i vettori low cost stanno iniziando sempre più, o direi in maniera anche sempre più dominante, a servire non solo la clientela etnico-turistica, ma anche appunto la clientela d'affari, che quindi può volare su destinazioni similari. In questo senso intendo anche aeroporti primari e non solo secondari, distanti dai centri primari, con condizioni tariffarie sicuramente più convenienti. Quindi low cost sicuramente sono un fenomeno di cannibalizzazione che all'interno del settore sta cambiando le regole del gioco in maniera sostanziale. Quindi magari arriveremo dalla famosa e mitica Jet Set Society degli anni 70 e 80 alla low cost community. Certamente, a meno che, come è auspicabile, come già menzionava con quello che lei menzionava in termini di semplificazione dei processi di business da parte dei vettori tradizionali, questi stessi non riescano a reingegnerizzare, a lanciare nuove campagne commerciali o nuovi profili d'offerta più interessanti, più appealing, non solo per il passeggero ma ancora una volta per le imprese che pagano in realtà il loro biglietto aereo. Penso per esempio alle classi cosiddette premium economy, e sono soluzioni di viaggio e di comfort intermedie tra la business e l'economy che sono a un prezzo molto più conveniente, che risultano essere tipicamente benvenute da quel sistema di imprese quale le piccole e medie imprese, che in Italia per esempio è la gran parte della nostra offerta industriale. Una eco business. Grazie a Davide Jarak, docente appunto di marketing del trasporto aereo allo SDA Bocconi. Da Sebastiano Barisoni e voi in ascolto l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Per ora è tutto con Focus Economia.